Letture di Radio 24. A distanza di una settimana dalla morte di Peter Lenz, un altro giovanissimo pilota perde la vita in una gara di motociclismo. Ma lo spettacolo deve continuare. E le gare prevedono anche questa possibilità, come commentano a caldo alcuni colleghi del giovane Tomizawa. Ma sono davvero parole di scarsa sensibilità? Come si chiede Ferdinando Camon in un commento pubblicato sulla stampa. Giornata tristissima per lo sport. A Misano, durante il GP della Moto2, un pilota giapponese di 19 anni correva a 240 all'ora. La sua moto si è intraversata. Lui è balzato in aria e quando è caduto i due piloti che lo inseguivano gli sono finiti addosso e l'hanno travolto. Ma non stanno qui gli apici della tragedia. Non è per questo che ne parliamo. Alla tragedia sportiva, sempre possibile nelle gare dove per vincere bisogna oltrepassare i limiti di sicurezza, si aggiungono altre tragedie, che vorrei dire morali. Dopo la visione atrocemente spettacolare del multiplo incidente, con tre moto e tre piloti coinvolti, la gara è proseguita come se non fosse successo niente. Dunque, quella tragedia era un niente. Per molti minuti il pilota ragazzino è rimasto sospeso tra la vita e la morte. Nel circuito le autorità sapevano tutto, ma nessuno ha pensato che quel tutto valesse qualcosa. Il problema era: si poteva perdere tempo per la morte di un ragazzino? Si poteva ritardare la partenza dell'unico vero grande spettacolo sportivo della domenica, il MotoGP? La risposta è stata no. Non si dica, ma non sapevano ancora che il giovane pilota sarebbe morto. Potevano pensare a ferite rimarginabili. Concludere la gara di GP col giovane pilota giapponese fuori pericolo era un bene per tutti. Ritardare la gara non serviva a nessuno. Errore. Non è un ragionamento lecito. Perché la cronaca del GP è proseguita in costante collegamento con la clinica dove il 19enne giapponese stava morendo. La notizia della sua morte è arrivata in diretta a tutti nel circuito e a tutti noi nelle case del mondo. E il coro dei cronisti è stato: non c'è niente da dire. Non c'è niente da fare. E così tutto proseguiva come se niente fosse. Ma neanche questo è il vero acme dell'insensatezza di questa tragedia in diretta. Perché quando la gara è finita, i grandi campioni sfilavano uno alla volta davanti alle telecamere, strizzati nelle tute multicolori, tutti venivano informati e tutti reagivano con: così è lo sport. Non si poteva fermare la gara. Sappiamo che la logica è questa. Quest'ultima risposta è del grande Valentino Rossi, il più amato dagli italiani. Sono parole di scarsa sensibilità? Provengono da un fondo morale dove mancano i valori? Ma no, i valori ci sono e sono enormi. Valgono più della vita di tutti. Perché i grandi campioni che parlano così mettono in conto non solo che la vita dei concorrenti può essere stroncata di colpo, ma anche la propria. Partono e non sanno se arrivano. Se accettano che la loro vita finisca così, accettano anche che la gara non si interrompa, che il palinsesto delle TV non venga modificato neanche di un minuto. Nei siti dei giornali la tragedia ovviamente c'era, con tanto di filmato, ma prima e dopo c'erano l'ordine d'arrivo e la classifica mondiale. E queste notizie valgono più di quella. Chi vince resta, chi muore svanisce. Oggi tutti parlano della tragedia. Alla prossima gara non ne parlerà nessuno e la prossima gara non avrà tanti spettatori come ieri, ma di più. Se lo spettacolo che vediamo conta più della vita, non possiamo perderlo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ferdinando Camon, La tragedia che non conta, dalla stampa del 6 settembre. Strade in diretta. Buongiorno, attenzione alla nebbia che si incontra sull'autosole tra Chiusi e la diramazione Roma Nord. Piogge a tratti invece tra Milano e Brescia sulla 4 e tra Milano e Chiasso sulla A9. L'Enate Como Chiasso in direzione di Milano si rallenta per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo. Sulla I45 Orte e Ravenna da questa mattina chiuderà per lavori sino al 17 settembre il tratto compreso tra San Pietro in Bagno e Bagno di Romagna in direzione di Orte. Il traffico verrà deviato sulla provinciale 137 e sulla provinciale 138. Per il momento ci fermiamo qui, a chi è in viaggio raccomandiamo la prudenza. Letture di Radio 24. Ho sempre creduto all'amore, in questa attrazione sessuale che non ti fa pensare ad altro. Così raccontava in un'intervista Sergio Endrigo, scomparso il 7 settembre di 5 anni fa. I miei rapporti con le donne, a parte mia madre e le mie care zie che tanto mi hanno aiutato a sopravvivere, sono sempre iniziati da un'attrazione sessuale. C'è un termine anglosassone, sex appeal, che oggi non si usa più e che, secondo me, rendeva molto bene l'idea. Io ho del sesso un'idea. È come un supermercato dove uno sceglie le cose che più gli piacciono. Sei gay? Sei lesbica, bisessuale? Ognuno ha il diritto di scegliere. L'aspetto terribile del sesso è la violenza, fisica o psicologica che sia. Per me il sesso è stato sempre una cosa bellissima. A 18 anni, ma a parte qualche esperienza sessuale con qualche ragazza, rapporti non completi, eravamo agli inizi degli anni 50, sono andato nelle case di tolleranza, alias i casini. E passando quelle porte, posso affermare di non aver fatto del male a nessuno. C'è una mia canzone del 1970, La prima compagnia, che tratta proprio di quei primi rapporti sessuali, come si usa dire, mercenari. Voglio parlare dell'amore, proprio di quello che ho pagato in questa vita tanto avara. Si paga tutto e ben pesato. Amore facile di un'ora, dove non giochi la tua vita. C'è un po' di gioia e mai dolore, chiudi la porta ed è finita. C'è una grande ipocrisia da parte sia dei media che in generale su questo argomento. Molti anni fa, nel corso della trasmissione radiofonica Chiamate Roma 3131, quasi litigavo con Catherine Spack perché lei, leggendo una lettera, non ricordo di chi, sosteneva che la prostituzione era dovuta alla domanda e non all'offerta. Punti di vista. La passione? Giovani che ammazzano la ragazza dei loro sogni e poi si suicidano. Un professore, giovane, che uccide la studentessa e poi si suicida. Fatti di cronaca nera. Per fortuna rari. Io ho sempre creduto nell'amore, in questa attrazione sessuale che non ti fa pensare ad altro, che impegna tutte le tue giornate e le notti. Quando ero ragazzo, dalle mie parti in Istria, ascoltavo i grandi parlare. Dicevano che certi mariti e mogli litigavano tutto il giorno e poi facevano la pace a letto. Poi può nascere la tenerezza, la comprensione. Arrivano i figli, i nipoti, le nozze d'argento e d'oro. Sopraggiunge la vecchiaia e poi si muore. Forse ho fatto un po' di confusione, ma l'amore e la passione non sono matematica. Ho conosciuto e amato molte donne. Mi sono sempre piaciute, ma non le ho mai capite. Perché non basta una vita intera per capirvi ad una. Immagina il futuro, una guerra senza fine, una torre di Babele. E tu lo chiami amore, beata te. Avete ascoltato un passaggio del libro di Doriano Fasoli e Stefano Crippa, Sergio Endrigo, La voce dell'uomo. Edizioni associate, 216 pagine, 15 euro. Cercare di salvare Sakineh, la donna iraniana condannata alla lapidazione per adulterio, si stanno mobilitando in tanti, dal Papa ad Alemanno, passando per Francesco Totti. Ma il clamore suscitato da questo caso contrasta con il silenzio attorno ai tanti casi simili avvenuti in passato, casi di uomini e donne condannati dal regime iraniano nell'indifferenza generale. Se le piazze e i giornali europei si sono riempiti per Sakineh, l'adultera iraniana condannata a morte tramite lapidazione, significa che è rimasta un po' di moral clarity anche dalle nostre parti. Non si era mai visto, poi, che uno Stato desse della prostituta alla moglie di un presidente straniero. Dopo la fatua sessuale contro Carla Bruni, si è mossa anche tanta gente di sinistra, intellettuali alla page, umanisti blasonati, scrittori d'establishment e Repubblica. Ma c'è anche una grande ipocrisia in questa vicenda. È il silenzio sulle dozzine di Sakineh precedenti a questo tragico caso, uomini e donne sempre giovanissimi condannati a morte dal regime iraniano perché chiedevano democrazia e diritti. Il problema è che il punto di vista umanitario, quando assolutizzato e sposato a un facilismo salottiero, diventa angelicismo. Sono le chattering classes, i ceti colti urbani, che si sono scelti una vittima innocentissima, la più innocente, velata dal Shador e colpevole di un crimine morale, ideale in un moto di indignazione retorico e libertino bon à tout faire. Così gli stessi giornali, intellò e gente dello spettacolo che oggi manifestano animosamente e giustamente per Sakineh, nulla hanno detto sui giornali anti-regime, sugli attivisti dei diritti umani, sui desaparecidos e sui dissidenti spediti alla forca. Perché filoamericani, perché sionisti, perché nemici di una dittatura genocida, antisemita e totalitaria che si poggia su due gambe, la democrazia plebiscitaria di massa e la teocrazia governata dalla Sharia. Le anime belle del cinema e delle lettere nulla hanno obiettato quando gli Ayatollah hanno regalato in olocausto al nostro tempo greggi di bambini innocenti, quando i cristiani sono stati messi a morte o quando blogger libertari e religiosi in odore di modernità, noti ai nostri lettori, vengono appesi a testa in giù. Sakineh è in pericolo perché l'Iran è stato legittimato nelle sedi internazionali, perché ha costruito un bel nido caldo alle Nazioni Unite. 6 mesi fa denunciammo l'ingresso di Teheran nella Commissione ONU sulle donne. Chi altri lo fece? Di tutti i dissidenti uccisi a malapena si è avuta notizia sulla stampa in delirio per Sakineh, per non parlare della connivenza intellettuale e politica con un'ideologia medievale che mobilita le masse islamiche all'odio, che insegna ai suoi figli a glorificare i kamikaze, che si esalta nel votarsi al disastro, che minaccia la sicurezza e si fa violatore senza remore di diritti umani. Chi ha obiettato alcunché quando Saeed Mortasavi, il pubblico ministero di Teheran che ha chiuso i giornali, perseguitato scrittori e torturato intellettuali, è entrato nel Consiglio dei diritti umani dell'ONU? E quando Ahmadinejad ha portato al Ministero della Cultura il filosofo Ali Ramin, che considera gli ebrei responsabili del tifo? C'è il sospetto che tanta gente di establishment, intellettuali, scriventi e parlanti nel sistema dei media e dello show business, abbia scelto Sakineh come icona per abbellirsi la coscienza. Lottare per la vita di questa ragazza, causa nobile e giusta, equivale pure a esercitare la più facile delle retoriche. La prossima volta che Teheran minaccerà di incenerire Israele, sarà più semplice voltarsi altrove. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giulio Meotti, Le coscienze infelici del caso Sakineh, dal Foglio del 3 settembre.